Don't stop me. Siete pronti? Non fermateci! Questa è la MotoGP. Impossibile stare fermi. Stop del motomondiale, cancellato il primo GP in Qatar, ovviamente per quanto riguarda la MotoGP, ma è arrivata anche l'ufficialità che sarà rinviato anche il secondo, quello in programma il 22 marzo in Thailandia. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Perché giocare una partita il 13 maggio è diversa di giocarla oggi. Se si fa una scelta ben precisa, o si gioca o non si gioca. Perché secondo me il campionato è falsato in questo modo qua. Le polemiche tra le varie società di calcio sul fatto che rinviare o meno le partite abbia favorito una squadra piuttosto che un'altra. Tanto la Lega di Serie A è autonoma. Adesso ha un calendario che può ricambiare come vuole. Si organizzino tra di loro. Qui siamo di fronte a una situazione di forza maggiore e non è che possiamo solamente guardare i propri interessi. Per dirlo anche alla Lazio, se vogliono giocare lunedì sera, noi giochiamo anche lunedì sera, poi martedì andiamo a Valencia, così loro sono più contenti. Forse una volta per tutte servirebbe fare un metro indietro, c'è il rischio che oggettivamente le cose si complicano in un modo quasi fuori controllo. La Lega di Serie A, che è garante di 20 squadre, non di 4, 6, 8, 10, ma di 20, la cosa più lineare era slittare di una giornata e trovare un turno infrasettimanale. L'Inter è disposta a giocare lunedì 9 a Torino. Ieri abbiamo chiesto alla Lega di convocare l'assemblea e nel frattempo di presentare all'assemblea, quindi mercoledì, due o tre ipotesi per cercare di dare stabilità a questo caos. Questa è un'ipotesi che io ho appreso mediaticamente, sicuramente è già una cosa di buon senso. Beh ragazzi, che giornate meravigliose, eh? Allora, intanto gli amici di Sky non si offenderanno, però qui fermano anche la MotoGP che non si può fermare, magari fermeranno anche la Formula 1, anche se pochi minuti fa la Ferrari fa sapere di essere pronta a partire per l'Australia. Allora, siete convocati tutti in seduta permanente, un po' come i presidenti della Serie A, per mandarci la vostra soluzione al caos dei calendari. Noi la giriamo poi a Paolo Dalpino, presidente della Lega Calcio, praticamente sconosciuto alla grande massa fino alle ore 12 di sabato, e poi è diventato l'uomo più amato e odiato d'Italia. Però adesso lo aiutiamo noi. 800 24 0024 per telefonare in diretta, 349 238 6666 WhatsApp, anche vocali. Quindi dateci voi la soluzione per uscire dal casino dei calendari. Carissimo Pierluigi Pardo, ciao. Ciao. Abbiamo grandi ospiti che ci stanno già ascoltando. Faccio una rapidissima premessa. Oltre all'abbraccio fortissimo all'amico che ha già scritto: vi ascolto solo per sentire come Pardo pro Lazio e Genta pro Juve difenderanno la scelta della Lega. Genta in ferie. Amico mio, mi spiace, ti dovrei limitare a Pierluigi Pardo. Che devo fare? Quindi devo fare il pro. Tu Lazio, sei il pro Lazio oggi. Pro Lazio, ma anche sei il pro Lazio. Anche il pro Juve. Fai punto. Anche il pro Juve, okay. Già che ci sei. Okay. Tu fai il pro Inter, però. Io faccio il pro Inter. Io faccio il pro Gasperini perché è stato meraviglioso. Dai, noi giochiamo anche lunedì sera. Martedì partiamo. Fate voi. 800 24 0024. Rapidissima sintesi. Mi pare che oggi sia il giorno della tregua armata dopo i cannoni. Marotta questa mattina l'avete sentito. Giocare Juventus-Inter lunedì 9 marzo è un'ipotesi di buon senso. Anche se poi due ore dopo ha telefonato all'Ansa per dire che è un'ipotesi di buon senso, ma prima dell'assemblea di mercoledì la Lega deve mandare tutte le proposte, non solo quella di giocare il 9, dopodiché l'Inter si pronuncerà. Quindi è di buon senso, ma ho l'impressione che ancora per un paio di giorni saremo sul pezzo. Carissimo Pier, saluto Gio Barone, numero 2 della Fiorentina, braccio destro di Rocco Commisso. Gio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, spero tutto bene. Noi tutto benissimo, bene. Adesso ci facciamo raccontare da te com'è andata sabato. Sì, questi tempi, tutto bene. Dai. Tutto bene, noi tutto bene. Non abbiamo la febbre perché ce la misurano all'ingresso in radio. Non abbiamo raffreddore, tosse, quindi tutto bene. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, parto da Andrea Di Caro. Possiamo dire che siamo al giorno della tregua armata o siamo troppo ottimisti? Ma insomma non mi cullerei sugli allori di questa tregua armata, perché si continuano a lanciare comunicati, a intervenire nelle trasmissioni. Io credo che Marotta abbia fatto il pieno obiettivamente ieri di tutte le trasmissioni possibili e immaginabili. Voleva in ogni modo insomma chiarire la propria posizione, mettere l'Inter in prima fila in questa che è diventata quasi una battaglia. Da questo momento in poi però non c'è soltanto l'Inter. Quindi è giusto che Marotta dica che l'Inter si esprimerà al momento opportuno, quando ci saranno l'ufficialità delle proposte, però a questo punto quando si vedono in assemblea mercoledì non decide solo l'Inter, adesso decidono tutti insieme, rispetto anche a degli eventi che vanno ben oltre le questioni calcistiche. Dico una cosa e poi lascio parola, io ero l'ho scritto insomma per affinché si giocasse sabato tutto il turno di campionato, porte aperte e porte chiuse, mettendo in secondo piano sia l'immagine del calcio italiano, anche l'immagine del paese, che tanto non viene in questo momento valutata in base agli spettatori in tribuna, ma in base ai contagiati e ai morti del coronavirus, per cui insomma questo poi sennò diventa soltanto ipocrisia. Io avrei fatto giocare la giornata di campionato, dopodiché quella scelta probabilmente è stata sbagliata e oggi ci troviamo a dover trovare una sintesi o comunque a metterci una toppa. Adesso però o la toppa che ci si mette o le scelte che vengono prese, si fa tutti quanti un passo indietro e si decide porte aperte, porte chiuse, in base a quelle che sono le esigenze e non soltanto gli interessi di bottega dell'una o dell'altra squadra. Sì, perché mercoledì ci saranno non solo l'Inter e la Juventus, ma anche l'Udinese, la Fiorentina, il Milan, il Genoa, il Parma, la Spal, il Sassuolo, il Brescia, la Sampdoria, il Verona. Ho citato in ordine sparso le altre 10 squadre che in questo weekend non sono scese in campo. Barone, che impressione le fa? Lei è arrivato in Italia insieme a Rocco Commisso da 8 mesi, forse si aspettava una situazione un po' più organizzata. Sì, no, allora io vorrei dire, siamo in una situazione di emergenza dove il primo pensiero è rivolto alla salute di tutti e alla speranza che venga presto trovata una soluzione per questa particolare e delicata situazione. Che vede per prima cosa in gioco la salute delle persone. Prima bisogna pensare a questo tema e agire come indicato dalle istituzioni preposte. Poi io vorrei dire anche, da quando noi siamo alla guida della Fiorentina abbiamo continuamente chiesto regole uguali per tutti, in campo e fuori. Occorre trovare una soluzione dove non ci siano dei dubbi di vantaggio o situazioni di favore per una squadra o per un'altra, senza nessuna eccezione. Detto questo, io direi che è il nostro obbligo, oggi come oggi, arrivare a tranquillizzare il campionato. E io ieri sera ho chiesto che si fa una riunione immediatamente, non aspettando a mercoledì. Quindi prima di mercoledì. Sì, prima di mercoledì, perché siamo in una situazione dove la cosa più importante, a parte la salute del popolo italiano e a livello mondiale, non sono le singole squadre, è la Serie A, è il campionato italiano, e dobbiamo cambiare il ragionamento della singola squadra. Cioè la cosa importante qui è il campionato totale italiano. Che rischia anche di non arrivare in fondo, come abbiamo scoperto nelle ultime 48 ore. No, Pier, poi abbiamo anche scoperto, sì, ma non è una scoperta, insomma, che in Italia il calcio va un po' per conto suo. Sì, sì, il calcio va per conto suo, sono stati commessi secondo me degli errori, soprattutto nel modo nel quale si è agito. Io penso che giocare a porte chiuse non sarebbe stato l'ideale, e che quindi un tipo di soluzione diversa possa essere giusta e possa andare nella direzione più corretta. Però sicuramente la procedura, le modalità che hanno portato a questo cambio di, tanto che c'è il treno in ritardo, va bene, ma le modalità non mi sono piaciute, ovviamente il fatto che a poche ore, addirittura sabato mattina con la Fiorentina che era Udine, sia stata spostata la partita, stesso discorso per il Verona a Genova. Sono d'accordo con chi come Gattuso dice che si debba seguire il calendario progressivo. Credo che in queste ore si stia lavorando a un'ipotesi proprio in questa direzione qui, per cui immagino che insomma le schiarite le vedo, da quello che mi risulta stamattina ci sono delle schiarite, come è logico che sia, quindi insomma si poteva magari evitare qualche scintilla in meno, sì, ma anche credo perché, fare peggio di come abbiamo fatto in questo weekend, chiedo ad Andrea Di Caro, era difficile. Non abbiamo esportato l'immagine dello stadio vuoto di Juventus Inter, ma immagino che all'estero insomma abbiano guardato con un sorriso alle nostre vicende. Ma guarda, io non so neanche quanto ci guardano all'estero sulle nostre vicende, perché penso che poi alla fine tutta questa attenzione all'estero nei confronti dell'Italia, del nostro campionato, delle nostre pochezze o piccole grandi mediocrità poi sia relativo. Ieri in Spagna si giocava al classico, non credo che si stessero preoccupando troppo di cosa stessimo facendo noi. Però detto questo, abbiamo dato per l'ennesima volta insomma una dimostrazione di confusione, di spaccature interne, di interessi veramente privati. Io sono d'accordo con Pierluigi sulle modalità che dovevano essere diverse. Per me addirittura si doveva giocare a porte chiuse laddove era previsto a porte chiuse. Sicuramente il modo e la comunicazione non è stata né tempestiva né gestita nella maniera migliore. Dopodiché però chiunque poi abbia modo di parlare, ha avuto modo di parlare con presidenti o con le istituzioni, si è reso conto che nelle varie telefonate che ci sono state ogni presidente di calcio difendeva i propri interessi, ma a volte anche in maniera veramente risibile rispetto al problema generale. Chi non vuole giocare, chi dice da questo momento in poi non gioco più a porte chiuse, chi faceva il conto del fatto che la squadra che doveva affrontare la settimana successiva non aveva giocato quella precedente, quindi era più riposata, o quella che ci aveva più diffidati non ha giocato, per o cui troppo oggi riposata, perché c'è anche chi poi è fermo da due settimane, o troppo riposata, delle beghe di bassissimo livello, anche se poi è chiaro, sì, che ma nulla di così poco noto per chi segue le vicende del calcio italiano. Chi ha minacciato cause legali, chi ha minacciato risarcimenti danni, chi dice se vado in Serie B ti chiede, ecco, questo è il clima tipico delle assemblee di Lega e dei consigli. È chiaro che quando poi non riesci a mettere insieme d'accordo neanche due dei 20 protagonisti, è più facile che alla fine uno dica vabbè, a questo punto decido io. Detto questo, io mi auguro che nell'assemblea di mercoledì si possa arrivare a una soluzione la più di buon senso, la migliore sul momento sul tavolo, mi sembra quella di recuperare le partite che sono state rinviate e poi di slittare di un turno. Vedremo se questa andrà bene più o meno a tutti, però veramente in questo momento bisogna fare un attimo un passo indietro, sì, tutti quanti, un passo e cercare indietro tutti. Di ritrovare un equilibrio. Aspetta, fatemi chiedere a Gio Barone se secondo lui è possibile mettere un punto, anche magari a costo di dover rinunciare. Cioè io penso a chi magari nelle prossime settimane verrà richiesto di giocare a porte chiuse, ad esempio, che è uno dei grandi temi. Tanti club hanno detto da qui in poi non gioca più nessuno a porte chiuse. Cioè si può mettere un punto e fare questo passo indietro o no? No, dobbiamo assolutamente mettere un punto, no? Questa è una cosa molto importante. Allora io posso dire, noi seguiamo e rispettiamo le regole, ma anche in questa occasione stiamo proponendo all'estero un calcio italiano che continua a litigare, che non abbiamo credibilità, che siamo un calcio confuso, non uniti, e questo per noi non è accettabile, no? Perché ovviamente stiamo trattando di far arrivare nuovi investitori nel calcio italiano, per far crescere il calcio, facciamo il mercato, compriamo dei giocatori, abbiamo dei tifosi. Allora la Fiorentina è andata a Udine, abbiamo preparato la partita tutta la settimana, stavamo d'accordo per giocare a porte chiuse, no? Allora se va bene per noi, perché non dovrebbe andare bene per tutti gli altri? Cioè a un certo punto una decisione precisa non ci sarà sempre un disaccordo, però per il bene del calcio italiano, per il bene, io ripeto sempre, non della singola squadra, per il bene della Serie A, dobbiamo arrivare a un punto fermo dove si va avanti, e aspettare a mercoledì per fare una riunione troppo tardi, così importante, io l'ho detto ieri sera, è troppo tardi. Tutti noi abbiamo dei aerei privati, degli autisti, dei mezzi che ci possiamo spostare in un modo molto molto veloce. E io ripeto un'altra volta, domani mattina siamo tutti a disposizione per arrivare a Milano, a Roma. A Milano non si può, Gio. andate a Roma. A Roma, dai. Possiamo chiudere qui. Ha ragione, anche perché poi di fatto la decisione che è stata presa ieri, cioè di posticipare a mercoledì l'incontro decisivo, di fatto ha tolto dal campo la proposta del Napoli, che comunque era un'altra proposta di buon senso, no? Cioè quella di giocare tra mercoledì e giovedì, comunque giocare in presettimanali le partite da recuperare e spostare la Coppa Italia. Detto questo, credo che ieri pomeriggio sarebbe stata bocciata qualsiasi ipotesi, anche proposta dal Papa in persona. Io credo, e ripeto, i miei exit poll, per quanto precari, provvisori, parlano di una schiarita. Io credo che si andrà verso una soluzione di buon senso che dovrebbe mettere d'accordo tutti, fermo restando il fatto che è una soluzione che poi si basa sull'idea che la situazione migliori, perché questo non va dimenticato, no? Per esempio Juve-Inter il 9, è chiaro che se veramente nei prossimi giorni, e tutti i virologi, da quelli più preoccupati a quelli meno preoccupati, sanno benissimo che nella prossima settimana capiremo tanto, no? Capiremo tanto dell'evoluzione del contagio. Quindi sì, però stiamo scommettendo sulla certezza che si torni verso la normalità, certezza che non ha nessuno in questo momento. Stiamo scommettendo sul fatto che innanzitutto bisogna avere un calendario certo, quindi bisogna stabilire da qui fino alla fine della stagione le partite. E poi è ovvio che a quel punto ci sarà una responsabilità che va oltre quella delle autorità calcistiche, che è invece quella delle autorità sanitarie, per cui capirci, se Juventus-Inter lunedì prossimo il 9, contrariamente a quanto ci aspettiamo, non verrà tolto quel tipo di provvedimento, sì, che si fa? Si giocherà a porte aperte, chiuse, semichiuse. O altre ipotesi sul tavolo. Allora io devo salutare Andrea Di Caro, che ha un altro impegno, lo lascio, ti chiedo solo in sintesi se trovi un assolto in tutta questa vicenda, mettendo dentro anche il ministro e la politica per definizione. Ma sai, la premessa d'obbligo è che noi comunque abbiamo vissuto, stiamo vivendo ormai una decina di giorni in uno stato di confusione in cui c'è tutto il paese, perché il coronavirus, per come è arrivato, per come si è espanso e per come sta bloccando delle regioni, peraltro che sono il motore economico dell'Italia, ha creato una grande confusione mediatica, politica, polemica, insomma c'è stato un po' di tutto. All'interno di questa situazione caotica sono state prese anche delle decisioni sportive, per cui è difficile trovare dei colpevoli in una situazione in cui obiettivamente veramente è successo tutto e quasi il suo contrario. Detto questo, non mi è piaciuto moltissimo ieri sera poi il ministro dello sport, che a un certo punto si è proprio tirato quasi fuori. Si è sfilato in maniera un po' filatesca, no? E quindi ha detto praticamente fate voi no, perché sappiamo anche che la politica aveva consigliato in maniera piuttosto pressante di giocare a porte aperte, per non dare anche in quel caso un'impressione del paese bloccato con gli stadi a porte chiuse. Quindi ci sono state una serie di correnti che hanno poi spinto autonomamente il presidente di Lega a prendere una decisione che, io ripeto, secondo me era sbagliata. Si doveva giocare a porte chiuse, non si sarebbe creato tutto questo caos. Però è il momento di mettere un punto e ripartire. Però non è che adesso è stato solo D'Alpino, perché se no facciamo ridere, insomma, no, sì. C'è stata una serie di situazioni, oltretutto tanti presidenti sono stati ascoltati telefonicamente e lì si è creata quella grande confusione che è tipica purtroppo del nostro calcio. Sì. Speriamo adesso che si trovi una soluzione mercoledì. Credo che la difficoltà ad anticipare i tempi sia stata dettata anche dal fatto che entro mercoledì bisogna presentare in assemblea più di una soluzione che possa essere votata e che quindi però queste soluzioni debbano essere certe, per cui capire. Ci sia la necessità di aspettare anche fino all'ultimo minuto prima di mercoledì per evitare di partire per delle soluzioni. E poi perché devi comunque sentire le televisioni, chi è interessato, chi comunque magari deve rinunciare a degli incassi, chi deve rimborsare magari le proprie tifoserie, quindi a un certo punto devi prendere tutta una serie di informazioni per presentare delle proposte credibili che spero saranno votate trovando la migliore. Grazie Andrea. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie a Andrea Di Caro, resto con Gio Barone e Pierluigi Pardo. Intanto è arrivata una notizia meravigliosa che non c'entra niente con il calcio, ma poi siamo in Italia, siamo un paese fantastico. Notizia che viene da Genova. Una donna di 59 anni è passata col rosso e ha finto di avere il coronavirus per evitare la multa. Speravo meglio come notizia meravigliosa. Insomma, dai. Una guarigione di qualcuno. Potremmo proporla per un ruolo operativo, diciamo, nel calcio italiano. La fantasia non ci manca. Mi fate chiedere a Gio Barone, che viene dal mondo americano, dove ci sono i commissioner che hanno poteri amplissimi, poteri di vita e di morte sui campionati che governano e nessuno protesta, perché in Italia non si riesce, se questa cosa insomma lo colpisce. Io direi, per tutto quello che già io ho vissuto direi che è importante per la Serie A di arrivare a quel modello lì, no? Di avere un gestore, un commissioner come, come già tanti sport americani, no? Che fa delle decisioni per la Lega, non per la squadra individuale, per la Lega. E dobbiamo arrivare a un modello dove, parlando anche da prima della, della decisione di fare la riunione il mercoledì, però sono ormai 4-5 giorni che metà della giornata è al telefono con tutti i vari proprietari, no? Allora tanto vale trovarsi al telefono, perché cioè è meglio essere tutti in una stanza dove possiamo mettere assieme delle idee e uscire fuori con una decisione finale di come, come andare avanti per il campionato. Cioè, invece di stare al telefono, io chiamo uno, l'altro chiama a me, facciamo il giro del mondo e alla fin fine passano dei giorni. Quante batterie ha scaricato in questi giorni? Scusa? Quante batterie di telefonino ha scaricato in questi giorni? Bisogna andare avanti con il caricatore continuamente. Però sabato ve l'hanno detto all'ultimo momento. Allora, sabato sì, perché io Daniele Pradè e Giuseppe Comisso stavamo in macchina andando su a Udine e ho ricevuto la telefonata, stavamo verso Bologna, la zona lì di Bologna, verso le 12:20, che dalla Lega che la partita non si faceva. Meno male che non stavate nelle gallerie, Pier, perché altrimenti rischiano di perdere la telefonata, arrivare fino in Veneto e arrivare fino in fondo. Si mangia bene a Udine, però si mangia benissimo anche a Firenze. Si mangia il frigo San Daniele. No, va bene, ma insomma ha ragione Joe Barone, perché secondo me il punto andrebbe proprio ribaltato ed è in queste situazioni che emerge la polifonia, l'eccessiva polifonia che c'è, no? troppe voci, troppi interessi, e insomma sappiamo che l'NBA, l'NFL funziona in maniera diversa, che il giocatore ha anche un rapporto diretto con la Lega prima ancora che con la squadra che gli paga lo stipendio, no? Che per esempio i giocatori dell'NBA hanno una sorta di introduzione ai comportamenti, agli obblighi, ai diritti, ai doveri, che è fatta di mille aspetti e parlano tutti insieme, perché il rapporto è un rapporto che esiste con la NBA o con la NFL. Ecco, in Italia siamo con un modello diverso, chiaramente un modello aperto. Sì, non è detto che si debba copiare tutto, però c'è un punto di incontro. C'è un punto di incontro, anche perché poi, insomma, per esempio l'Inghilterra ha dimostrato che il grande salto l'ha fatto quando ha cominciato realmente a ragionare, a fare squadra. All'americana. No? A proposito di ragionamenti all'americana, Joe, che punto siamo sullo stadio? Ci siamo lasciati con Rocco Commisso oramai un paio di mesi fa, era ancora sul fast, poi insomma le vicende le abbiamo seguite da lontano. Altro tema delicato per chi viene in Italia a investire? Ma con lo stadio al momento c'è il bando aperto per la Mercasie, la zona di Firenze. Noi continuiamo a valutare, il bando scade il 7 aprile, continuiamo a valutare, è praticamente l'unica opzione che il comune oggi come oggi ci ha presentato, vediamo se partecipare o no, non è che ci sono altre possibilità al momento che si sono presentati, vediamo. Ma siete un po' delusi da come stanno andando le cose? Ma direi di sì, perché ovviamente è una situazione, io vorrei ribadire, non è solamente una situazione di Firenze, no? Io ho sempre parlato della classifica del calcio giocato e poi c'è la classifica dei stadi, no? Oggi come oggi il calcio italiano in totale, o lo sport, io ovviamente siccome mi occupo della Fiorentina siamo nel calcio, parlerò del calcio, però io direi che dal CONI, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Serie A, dalla Serie B, dalla Lega Pro, dai dilettanti, c'è il bisogno del lobbying al governo, del lobby che ogni giorno lavora con tutti questi istituzioni per le leggi sui stadi. Questa è una cosa molto importante. Sì, parliamo dei diritti televisivi, Parliamo dell'estate e dell'infrastruttura. Però l'infrastruttura, gli stadi, è la cosa più importante del futuro del calcio italiano. Ora, io ho detto in nome del CONI, no? Perché il CONI si occupa di tutti i vari sport, però io sto parlando di noi stessi, perché qui si parla di calcio. E il problema del calcio italiano oggi come oggi sono i stadi, e non è solamente una cosa di Fiorentina, è di Bologna, è del Genoa, della Roma, del Lecce, del Palermo, del Catania, anche di Inter Milan, che sono in mezzo a una trattativa con il Comune. Certo, se mi risponde in un flash le chiedo se esiste veramente l'ipotesi di fare lo stadio fuori Firenze, visto che molti comuni si sono candidati. Ma guarda, tutto è possibile, no? Noi siamo qui per portare avanti la Fiorentina, per portare avanti il nostro goal è di giocare in Europa, no? Non ti dico che ci vogliamo giocare quest'anno e il prossimo anno, ma come tutte le squadre che fanno competizione, il massimo è di giocare in Europa, no? Però per giocare in Europa c'è un giro che una società deve fare, che oggi come oggi è la Fiorentina, è difficile quando tu hai delle entrate che sono sotto i 100 milioni, no? Non puoi andare a fare competizione in Europa, andare sul mercato a comprare i giocatori quando le entrate sono quelle che sono. Ma questo vale non solo per la Fiorentina, ma valgono anche per tutte le altre squadre. Sì, se si presenta qualche cosa, ovviamente siamo i primi immediatamente a valutare. Questa è la situazione che la Fiorentina oggi come oggi ha davanti. Sì, c'è anche l'ipotesi quindi che si vada fuori Firenze. Grazie a Gio Barone. Grazie. Grazie Gio. Pier, stanno arrivando tanti messaggi, fondamentalmente si dividono tra juventini e interisti, perché sì, a questo si è ridotto nelle ultime 48 ore tutto il dibattito. Ho preciso che so che Udine non è in Veneto ma in Friuli, in Veneto nel senso che usciti dalle gallerie si fermavano in Veneto più vicini a Udine, ma insomma fino a lì siamo alle basi della geografia, ci arriviamo. Allora, c'è la borsa, poi sentiamo voi, i vostri WhatsApp audio 800 24 00 24, andiamo in Spagna dove almeno ieri sera abbiamo visto una bella partita. Spero tanto per la grande sportività dimostrata da Lotito che l'Atalanta faccia altrettanti 7 gol alla Lazio. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Convocati. Sempre, in qualsiasi caso c'è di mezzo la Juve, si crea il panico, il putiferio, perché se questa decisione non avesse riguardato la Juve, non era successo niente, stavano tutti zitti e si giocava tranquillamente recuperando. Io il campionato lo farei giocare alla PlayStation, visto che qua hanno paura di non avere i tifosi, di morire, del corona, di qua e di là. Giochiamolo alla PlayStation, così sono tutti contenti. Allora, continuate a mandare i vostri WhatsApp, 349-238-6666. Matteo, provincia di Modena. Matteo. Sì, salve. Vai. Io penso che ormai, dopo tutto questo caos, una soluzione che accontenti tutti non ci sia. Ormai giustamente ogni dirigente guarda nel suo orticello chi ha giocato di più, chi di meno, però questo deve fare pensare per il prossimo anno, per i prossimi anni, che 20 squadre sono troppe, 4 pause per le nazionali è una roba vergognosa, quando si potrebbe giocare a fine sì, però le fanno in tutto il mondo 4 pause per le nazionali, sì, magari ragioniamo sulle 2 squadre in più o in meno in Serie A. 2 squadre in più sono 4 partite e inoltre si può partire una settimana prima e a Natale non c'è bisogno di star fermi 2 settimane. Dai. Come in Inghilterra. Il discorso è più ampio, cioè, poi adesso ci troviamo che non ci sono più date, è impossibile trovarle. Sì, io credo che però la soluzione non sia giocare sempre, non so Pier che pensiero hai, no, tu, ma magari scendere adesso di 2 squadre. Innanzitutto può essere l'occasione. Del corona è eccezionale, insomma, ci auguriamo che che per tanti anni non ricapiti una cosa del genere, quindi questo è il primo elemento. Sul fatto di giocare in 20 squadre è un vecchio tema, ma insomma non è soltanto l'Italia che ha un campionato a 20 squadre, e secondo me alla fine, ripeto, io poi sono sempre ottimista, penso che alla fine la soluzione si troverà. Quello che c'è stato veramente negativo e che non è purtroppo sistemabile è la brutta figura, nel senso che comunque si è data l'idea di una Lega assolutamente litigiosa. La soluzione si troverà, io penso che si andrà appunto verso questo recupero delle partite nel prossimo weekend, si seguirà la progressività del campionato come è giusto che sia, perché è giusto che non ci siano troppi sbalzi in avanti. Poi si parla molto di Juve-Inter, ma in realtà sì, ce ne sarebbero altre 5 di partite. Ma il ragionamento di Liberani mi ha molto colpito, insomma, al di là dei toni, però è ovvio che insomma il Lecce, che gioca la partita contro l'Atalanta e poi sappiamo come è finita, in questa situazione vede le sue rivali che giocano fra due mesi, quando poi ci possono essere squadre già retrocesse, squadre già salve, insomma c'è un evidente condizionamento, come anche il ragionamento di Gattuso. Però ti ripeto, io penso che alla fine l'accordo si troverà nelle prossime ore, verrà ufficializzato perché adesso stiamo verificando una notizia che adesso la proviamo a verificare. Achille da Varese, Achille. Sì, buongiorno. Vai. Buongiorno a tutti quanti voi. Beh, innanzitutto il Leopardo mi ha anticipato, in realtà volevo dire proprio questo, che essendo tifoso del Lecce, che era evidente che in questo modo si falsava completamente. Quindi mi ha già tolto l'argomento. Poi, se mi permettete, vorrei dire benissimo, se qui cercano la collegialità vanno a finire come succede in Italia, poi spesso le decisioni vanno alle calende greche, cioè devono decidere la maggioranza e basta. E poi scusate, un'ultima cosa, permettetemi di evidenziare che ieri il nostro pubblico, anche se abbiamo perso 7-1 contro una 7-2 sì. Non buttarti giù contro una grande squadra, no, fino al primo tempo siamo riusciti a tenere testa, e anche se abbiamo perso il pubblico ha applaudito i giocatori perché ha capito che in questo momento c'è una differenza tecnica evidente. Non è Lecce l'unica squadra che ha fatto una brutta figura sportiva, intendo contro l'Atalanta, facevo ieri il conto, sei volte in questo campionato, 4 più gol ha segnato l'Atalanta. Sì, ho fatto un tweet ieri perché comunque mi ha colpito, purtroppo non è usuale quel tipo di atteggiamento, quindi applausi ai tifosi del Lecce, perché perdere 7-2 e ciononostante battere le mani alla squadra, ripeto, non è una cosa così scontata. E sul resto sono d'accordo, ma ti ripeto, adesso non so qual è l'ultimissima ora che hai e che stai cercando di verificare, ma insomma io credo che si debba trovare una soluzione, non c'è via d'uscita e credo che i dirigenti faranno bene nelle prossime 24 ore non soltanto a trovare un accordo, sì, che ovviamente è complicato perché ci sono mille variabili. Adesso ti do una variabile in più. Intanto saluto Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo, adesso parliamo del classico. Buon pomeriggio. Allora, ha scritto un quarto d'ora fa il collega Gianluca Udennino, solitamente ben informato, collega della Stampa: importante aggiornamento, Juventus-Milan di Coppa Italia, mercoledì sera si giocherà a porte chiuse, dovrebbe giocarsi a porte chiuse. L'emergenza coronavirus cambia ancora i piani, in Piemonte le scuole riapriranno, si va verso la proroga insomma della riapertura lunedì e non mercoledì, e questo trascinerebbe, usiamo il condizionale, ma insomma lui così si espone, trascinerebbe anche la questione della partita di Coppa Italia Juventus-Milan di mercoledì. E quindi insomma l'abbiamo detto del resto anche all'inizio, no Pier? Sono situazioni che si aggiornano di minuto in minuto. Parliamo un po' del classico, così parliamo di calcio giocato. Proprio Vinicio Mariano! Già si storia, il Madrid recupera la punta del campionato, lo hizo Mariano. Real Madrid, Barcelona sera. Allora, abbiamo visto una bella partita, Filippo. Sì, abbastanza. Qui noi grande ritmo. È stata una bellissima partita in generale, è un po' confusionaria, tutti all'attacco, senza difesa, poco ordine, grandi folate, no? Perché di questo un po' si è trattato. Gioco, secondo me, non ce n'è stato tanto calcio, occasioni sì, però un po' casuali, un po' perché distrazioni, non così, almeno l'interpretazione che si dà qui in Spagna, sì, di una partita diciamo vibrante, vivace, però non con un grandissimo calcio. Però Real adesso sta meglio del Barcellona, sì Pier? No, come è abituato bene, ma hai capito, cioè di fronte alla partita con quella di ieri dice sì, vabbè, discreta, sei visto di meglio, cioè noi pagheremmo, capito? Sì. Non so, però è così, però è vero, cioè, io vivo qui, voi me lo chiedete, io vi rispondo, no, so, un classico un po' volgare, ma non c'è dubbio, è stato definito. No, perché se uno pensa che in campo comunque c'avevi cioè gente come De Jong e Kroos, poi è entrato Modric, c'è Isco, il problema è che il Barça adesso ha degli interpreti appunto piuttosto volgari, perché Vidal, Arthur, Braithwaite non sono esattamente, cioè se tu pensi che Messi era abituato a giocare con Neymar e Suarez o con Eto'o e Ronaldinho e adesso gioca con Braithwaite e Ansu Fati, perché Griezmann poi a un certo punto è uscito, si è ritrovato a rimontare con Braithwaite e Ansu Fati, insomma per me è un classico un po' minore. Però abbiamo anche visto Messi sbagliare uno stop sanguinoso sull'1-0. Sì, ma e poi farsi recuperare da Marcelo. Se tu mi dici, guarda, cioè, adesso Marcelo recupera, io dico no, impossibile. Infatti Marcelo ha festeggiato come se fosse George Foreman una vittoria su Muhammad Ali, praticamente, perché cioè, veramente non è il Messi a cui siamo abituati. Io lo vedo pericolosamente arrabbiato, pericolosamente arrabbiato fuori dal campo. Beh, quindi il prossimo classico, ci stai dicendo, potrebbe avere Ronaldo, che ieri era in tribuna e che Spagna dicono abbia nostalgia del Real Madrid, ma magari non Messi che va via dal Barcellona, sarebbe meraviglioso. Insomma, non lo so, sono tutte ipotesi. E il prossimo classico vediamo quando, cioè, appunto, quando arriverà, come arriverà. E sicuramente ieri Ronaldo ha vissuto un grande abbraccio da parte del Real Madrid, circa l'hanno foto con Vinicius, che sono vecchie, non è vera quella foto, non è di ieri sera, le dichiarazioni di Vinicius, anche quelle insomma sono piuttosto false, però piuttosto false non è male come definizione. No, perché cioè, ieri Vinicius non era in zona mista, non ha parlato, quindi non so da dove hanno tirato fuori questo fatto che Ronaldo è andato a fare una ringa ai suoi ex compagni nell'intervallo, che sarebbe stato bella, una bella storia, perché quindi, ha cambiato la squadra, il Madrid è cambiato nell'intervallo, però probabilmente ha parlato Zidane, non Ronaldo, però vabbè, no, è stata una grande serata di nostalgia, però vediamo, mi interessa, cioè secondo me, io la vedo più impostata su Barcellona-Napoli. Il Napoli ha una grande occasione. Resta il rimpianto per l'andata anche. Lo so, però non è che ha perso 3-0, è un 1-1, deve rimontare, deve cercare di... Però questo è veramente un Barcellona confuso. Cioè, ieri, vedi che... Allora, chi che se tiene? Viene a fare il cruifista, no? Viene qui e dice, no, adesso ci divertiremo. Comunque vada, ci divertiremo. No, invece manca proprio questo al tifoso del Barcellona. Non si divertono, perché questa melina continua che fanno con questo pallone non porta a nulla. Cioè, hanno una paura tremenda di andare avanti. Passano questo pallone in orizzontale aspettando che così un'ispirazione. Poi non lo so, insomma, il Napoli ovviamente sulla carta è meno forte del Barça, però questa io invito a cogliere l'occasione. Poi magari non sempre si può fare, e magari Messi si risveglia e fa 3 gol, perché c'è sempre questa cosa, però insomma, io quello che ho visto ieri sera è un Barça comunque fragile, questo 4-4-2 con Vidal a largo a destra, poi accanto a lui Arthur, tutti spostati di posizione, Griezmann abbastanza catatonico, ha sbagliato un gol da 10 metri col suo piede, insomma, io li vedo, sì, li vedo c'è Ter Stegen che è un muro, assolutamente, però sì, probabilmente ieri si è divertito anche Gattuso. Il Barcellona, sì, però il Barcellona... Muro gli ha fatto 2 gol e un altro gli ha salvato Piqué. Sì, vabbè, perché hanno tirato in porta 25 volte, però quel del Real. No, prima o poi, insomma, statisticamente va dentro. Dimmi Pier, che poi salutiamo, c'è il traffico. Poi il Barcellona ha perso, per tornare alla, diciamo, alla graduatoria di Xigos che ha vissuto Ricci, che lo porta quasi a torcere il naso. Il Barcellona ha perso con un Real che è tutt'altro che perfetto. Quindi veramente rispetto a quello che queste due squadre hanno regalato in questi anni, il livello, sono d'accordo, si è abbassato, cioè nonostante, pur con un livello sicuramente più basso rispetto a quello di qualche tempo fa, è venuta fuori una partita che insomma in Italia è rara per intensità, anche se pure in Italia stiamo migliorando secondo me rispetto a qualche anno fa, però insomma sì, però dai, la verità è che noi ci saremmo baciati i gomiti per un big match così. Non vinceva in casa dal 2014 in casa, capito? Cioè, sono 6 anni che non li battevano in casa in Liga. E per me la cosa, per chiudere, la cosa più curiosa, più divertente, da quando è andato via Ronaldo, 5 classicos di Messi, né un assist né un gol. Manca un sacco. E per questo ce lo ritroveremo l'anno prossimo qui in Italia. Grazie Filippo. Ciao, grazie ciao. Filippo Maria Ricci, saluto anche te Pier, che andiamo sulla MotoGP. Ciao, a domani, traffico MotoGP. siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Salta anche la MotoGP, cancellati il Qatar e la Thailandia. Se tutto va bene si parte ad Austin in Texas negli Stati Uniti il 5 aprile. Carletto Perna, ciao. Ciao ragazzi, capitato a noi. Dura da accettare, però davanti alla ragione maggiore. Ma guarda, sono d'accordo, dura da accettare, anche perché è arrivata all'ultimo minuto. Come voi sapete la Moto2 e la Moto3 sono là già da una settimana, ha fatto le prove, quindi faranno... il mondiale del Qatar, il Gran Premio del Qatar sarà fatto dalla Moto3 e dalla Moto2, che è un po' una cosa abbastanza strana, nel senso che loro possono farlo perché sono arrivati prima. L'altro ieri è uscita questa, diciamo, notifica da parte delle autorità qatariote, come si dice, dove praticamente quattro nazioni, Cina, Italia, Giappone e Sud Corea, qualsiasi persona arriva o va in quarantena o viene rispedita al mittente. Tagliare Italia e Giappone è dura dal mondo delle moto. Sì, però sai, più l'Italia, ragazzi, perché guarda, i giapponesi, ti dico la verità, ce ne saranno tra meccanici e diciamo team manager, che non ce ne sono, ci saranno 10 persone. Noi italiani siamo più che 1500, Quindi più fermare noi vuol dire fermare il campionato, cosa che di fatto è successa. E da qualche anno si corre qualche gara in più, quindi diciamo a livello di regolarità una stagione che perde due gare cancellate non è una stagione totalmente monca, però fa un certo effetto. Mi chiedo anche come si faccia a tenere accesi agonisticamente parlando i piloti. Leggevo Valentino Rossi, dura da accettare. Ma sai, io credo che sia soprattutto difficile per loro, perché per quanto riguarda la moto, lo sviluppo della moto non è che ci sia grande differenza, si sa di due gare, magari a casa ti prepari, fai anche degli sviluppi, come posso dire, a casa, quindi la cosa non è da un punto di vista tecnico difficile da digerire. È difficile per i piloti evidentemente, però sai, in questi due Gran Premi che non ci sono, qualcuno alla fine è brutto dire guadagnato, ragazzi, perché è una parola esagerata, però sai, Marquez era un attimino in crisi, nel senso che aveva questa seconda operazione alla spalla, non è che gli fosse andato molto bene, la moto dava dei segni un po' negativi, quindi sai, le prime gare, voglio dire, era difficile per lui, poi magari avrebbe vinto, sarebbe arrivato terzo, magari fuori dal podio, non lo so, però non era certo la situazione migliore per Marquez. E l'altra è per Iannone, che sta aspettando quella sentenza che tutti sappiamo, e sai, levandoci due Gran Premi magari va a guadagnare col tempo, non sì, lo so. Guadagna tempo, che è un valore prezioso. Esatto. Intanto mi correggo, Qatar che è stato cancellato, Thailandia in questo momento l'ipotesi che possa invece essere recuperata corso della stagione, no? Sì, hai ragione, nel senso che è cancellata come Gran Premio, diciamo come secondo Gran Premio, sì. Però verrà, ti dico sicuramente, perché io ho sentito la fonte da Dorna, sarà sicuramente fatta nello stesso periodo dell'anno scorso, praticamente prima del trittico, diciamo nel mese di ottobre. Sperando che nel frattempo le cose siano risolte, perché... la Dorna ha fatto anche un'altra cosa, ha cercato, pensa, addirittura di fare un charter da Nizza l'altro ieri, per portare tutti gli italiani, due charter, perlomeno i meccanici principali, ma gli è stato assolutamente vietato. E tra l'altro la sta cercando di salvare, tra virgolette, il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas, mandando le moto che sono praticamente in Qatar con dei charter direttamente ad Austin negli Stati Uniti, in modo che garantisce che almeno le moto ci sono. Poi dopo non so come si evolva la situazione, è chiaro che secondo me se fosse fra una settimana non si correrebbe nemmeno ad Austin. Invece in 5 aprile magari c'è la possibilità di farcela, a mandare poi qualcuno che salga anche sopra le moto. Perché poi il grande tema è questo, leggevo dalla Ducati ad esempio che ha il problema di recuperare le moto che erano già là pronte in Qatar. Sì, ma le manderanno direttamente negli Stati Uniti, vedrai, ti dico la verità, la Dorna farà così ed è anche logico che faccia così. E poi dopo, sai, di moto a casa ne hai, non è che non ne hai, solo che sai, tutti gli ingegneri hanno la gelosia di non far vedere queste moto, giustamente, no? Ognuno ha il suo sviluppo. Sì che le metti nelle casse, però poi chi le apre le casse? Fuori 3 settimane, bravo. Chi le apre le casse? Grazie Carlo. Grazie a voi, salutissimi. Grazie a Carlo Pernat. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Ricordo, non è una notizia, è un'indiscrezione. Juventus-Milan mercoledì, semifinale di turno di Coppa Italia, potrebbe giocarsi a porte chiuse, perché in Piemonte l'emergenza non finisce, si valuta di proseguire ad esempio con la chiusura delle scuole anche oltre mercoledì, non c'è nulla di ufficiale, lo dico, però a questo punto chiaramente anche la partita di calcio cambierebbe nuovamente scenario. Domani dopo il GR del 14, ciao! Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!